vivo quel che ricordo, come se ci fosse già, come se sarà sempre stato tutto quello che sarà. E sento, mi sento spaesato, come preso da una strana emozione, quando ripeto infinite volte il suono del mio nome. Chiudo gli occhi estraneo ai casi della vita, sento tra le mie dita la forma del mio cranio, e sento i pensieri gridare e precedermi in ogni azione, sento qualcosa di noto a cui ancora non so dare un nome. Un viaggio ignoto vedere ancora forme mai vedute, ed inizio a scoprire cose che da sempre conoscevo, che mi stavano davanti agli occhi anche se non le vedevo. E comincio a darmi ciò che ero, quello che prima mi sembrava normale, mi sembrava l'esempio che questo presente non si possa mai più presentare. Molte cose che ci sorprendono ci sembrano sensazionali, usiamo solo una piccola parte delle nostre facoltà mentali. Un viaggio ignoto nella mia mente, un viaggio ignoto nella mia mente, un viaggio ignoto. Cosa più noto di me.